Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Quante cose, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono successe da quando ci siamo lasciati da sabato scorso. Innanzitutto con i ballottaggi che ci sono stati, insomma, sono arrivate delle novità, per qualcuno gradite, per qualcuno sgradite, sicuramente però delle cose abbastanza impreviste sino a qualche tempo fa, e quindi poi tutta la scia naturalmente di polemiche, dibattiti, analisi su questi risultati e poi ovviamente anche dei equilibri, degli equilibri che un pochino cambiano. Ne parleremo molto, credo, se l'argomento vi interessa, se ritenete che sia la notizia della settimana, cosa che hanno sancito, devo dire, gli aderenti, come possiamo dire, i facebookiani alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, che vi ricordo è sempre lì quando volete aderire o fare i vostri commenti anche durante la settimana su le notizie che man mano si susseguono. Per loro, insomma, la notizia della settimana è sicuramente quella che riguarda i risultati dei ballottaggi. Secondo voi, qual è, tra le moltissime che anche in questi giorni si sono succedute, ovviamente, dicevamo appunto le elezioni amministrative, poi è notizia purtroppo di oggi l'uccisione di un carabiniere a Kabul che aveva cercato di difendere un'amica americana, Calciopoli, veramente l'ennesimo scandalo del calcio, raspa raspa, gratta gratta, non so che cosa dirò una cosa forte, ma non so che cosa ci sia alla fine di pulito, soprattutto insomma nelle principali serie dietro il calcio. Poi la nuova tragedia del Mediterraneo, ancora con dati molto incerti, anche se comunque spaventosi, già si parla di 150 annegati, erano 800 su questa barca che è affondata tra Lampedusa e la Tunisia, e come dice qualcuno, per esempio oggi Claudio Magris sul Corriere, ormai queste morti ci siamo talmente assuefatti che non fanno neanche più notizia, che non sono neanche più sulle prime pagine. Poi le celebrazioni del 2 giugno, ci sono state anche in coincidenza con i 150 anni, quindi tutte le personalità internazionali, tante personalità internazionali a Roma per festeggiare l'anniversario della Repubblica Italiana. Poi il batterio killer, anche di qui si sa pochissimo, prima si era imputato a qualche tipo di vegetale, poi invece non è così, è una nuova cosa che mette in allarme insomma la comunità internazionale. Poi una bella notizia, direi, finalmente dopo secoli, una donna direttrice al New York Times, uno dei quotidiani più prestigiosi del mondo. Veramente è una grossa notizia rivoluzionaria, se considerate che in Italia, insomma, tranne che due, ecco, di giornali, diciamo, tra virgolette, minori, per il resto non se ne parla. Poi, poi le altre aggiungetele voi, non voglio fare un elenco infinito. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, per raccontare in piena libertà quali sono le vostre opinioni sui fatti della settimana. E prima di annunciare il mio opinionista estemporaneo di oggi, direi di conservare il nostro rito, di raccontarci che cos'è che anche questa settimana ci conferma che effettivamente non ci sono più le notizie, non ci sono più le notizie una volta, non ci sono più le mezze stagioni. Anche i peli non sono più quelli di una volta, vuol dire, i peli col tempo, insomma. Adesso, senza andare alla preistoria con noi scimmioni, insomma, ma già fino a qualche anno fa si dava una certa importanza, non così eccessiva, soprattutto le donne, gli uomini per niente. Adesso invece anche gli uomini amano essere un po' glabri, insomma, non male, anche la pelle liscia degli uomini. E adesso c'è un ulteriore passaggio. Pensate che in questi giorni negli Stati Uniti è stato dato l'annuncio di una crema miracolosa che rallenta la crescita dei peli in 24 ore. Uomini e donne hanno svaligiato completamente i negozi di questa sostanza, adesso c'è una lunga lista d'attesa. È una cosa incredibile, proprio con la speranza, insomma, di abolire i rituali della barba quotidiana, del rasoio sotto la doccia, della ceretta, secondo un po', diciamo, delle modalità per combattere il bulbo pilifero. Questo per dirvi proprio addirittura contro che cosa l'umanità si accanisce, no? Come fosse una specie di siero della speranza. Ebbene, questo Adonia Hair Reducer Serum, appunto andato a ruba, si attende ancora, chissà quando arriverà poi in Italia, vedremo, ne riparleremo magari. Contiene, sembra, degli oli vegetali che produrrebbero uno stato catatonico dei bulbi piliferi. Voi immaginate, mi sono immaginati così, un po' con l'aria persa, con lo sguardo perso, questi peli, una specie di atmosfera sospesa, come si può dire, con quest'aria perplessa, ecco, uno stato catatonico, no? Immaginate il pelo catatonico. Chiederemo anche all'opinionista estemporaneo tra pochi istanti che cosa ne pensa. Direi, signore e signori, di annunciarlo. Marcello Veneziani. Buongiorno. Buongiorno Marcello. Marcello, tu che pensi del bulbo pelifero catatonico? Beh, mi sembra, come dire, nella gerarchia dei problemi che abbiamo, non ai primissimi posti, insomma, ecco. Poi tu ti tieni la barba, ce l'hai ancora la barba? Sì, non ho la barba, no, forse sono stato un precursore di questa lotta al bulbo, però credo che, insomma, davvero se inseguiamo questi dettagli, se inseguiamo appunto il pelo nell'uovo o nell'uomo in questo caso... Il pelo nell'uomo non è male. Insomma, siamo messi proprio male. Marcello si occupa di ben altro, viene da studi filosofici, è un filosofo, ma è soprattutto giornalista, scrittore. Il suo ultimo libro si intitola, pensate un po', a proposito di questioni cruciali, Vivere non basta. Non basta vivere, pubblicato da Mondadori, e sottotitolo Lettere a Seneca sulla felicità. Tu immagini di rispondere come avrebbe dovuto fare, insomma, avrà fatto l'allievo di Seneca, Lucillo, però queste lettere sono andate perse. È così, Marcello? Sì, io ho anche immaginato, diciamo, l'occasione del ritrovamento, cioè ho immaginato che nel crollo della casa del moralista a Pompei, che è avvenuto l'anno scorso, si siano ritrovate queste lettere di Lucilio, perché Lucilio era originario di Pompei, quindi diciamo c'è un fondamento storico. E ho immaginato appunto che finalmente si siano ritrovate 18 lettere a Seneca, considerando che Seneca ne aveva scritte ben 124 a Lucilio, insomma, in cui aveva praticamente insegnato una corrispondenza fissa. Gli aveva insegnato l'arte di vivere, l'arte di morire, la felicità, la giovinezza che va, la vecchiaia, quindi è stato, come dire, un libro che per millenni ha costituito un perno della nostra cultura umanistica, del nostro modo di educarci alla vita, e quindi diciamo tentare una risposta, forse seppur tardiva, è stato un tentativo di rianimare, come dire, il pensiero di Seneca e immetterlo nel nostro tempo, nei nostri giorni, insomma, ecco. Marcello, quindi fai molta attenzione ai prossimi crolli di Pompei, perché altre idee poi potrebbero venirti, no? Effettivamente potrebbero venire ad altri. Beh, forse meglio sarebbe risparmiarsi i crolli, insomma, ecco. Anche se devo dire che qualche lettore, prendendo sul serio questa mia idea, mi ha mandato una mail, era un professore universitario, in cui dice: finalmente dobbiamo essere grati al ministro Bondi, perché grazie ai crolli noi siamo venuti a ritrovare queste lettere di Lucilio. Non dare una lettura un po' più scrupolosa. Sì, no, ma era realmente convinto che fosse un ritrovamento, insomma. Tanto sono scritte bene queste lettere di Marcello Veneziani, tanto anche immerse nell'epoca di allora e di adesso, perché diciamo è un po' un escamotage, no? il tuo per fare una riflessione sul nostro tempo attraverso il mondo classico. Ma io ti chiederei subito, a parte la lotta ai peli, Marcello, qual è la tua notizia della settimana? Ma la notizia della settimana, la più eclatante, è comunque quel che è accaduto tra Milano e Napoli, direi soprattutto a Milano, certo. Indubbiamente, per quello che ci riguarda come italiani. Poi chiaramente ci sono dei fenomeni ancora più grandi che riguardano il mondo intero, ma penso che quello sia un segnale importante, anche se bisogna dire che non è forse di questa settimana, perché il vero segnale è già di qualche settimana. Da quel primo turno, senz'altro. È stato soltanto una Però una diciamo che anche chi, insomma, aveva visto uscire delle sorprese piuttosto grosse dalle urne già dal primo turno, non avrebbe dato al 100% la vittoria né di Pisapia né De Magistris, no? Sono state comunque... 100% no, però sai, ci sono alcuni fattori che lasciavano pensare a questa vittoria, cioè il fatto che in Italia quando si vince e si va dopo a votare si rivince alla grande, perché, come dire, noi italiani accorriamo sempre in soccorso del vincitore e abbiamo questa vocazione, e quindi quando avverti che una parte è vincente troviamo anche delle motivazioni, anche in buona fede, voglio dire, non per opportunismo, anche in buona fede, delle motivazioni ulteriori per votare. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che l'elettorato, diciamo, di centrodestra è tradizionalmente pigro e non va nel ballottaggio a rivotare dopo, perché sono pigri a destra, secondo ma te? Perché sono meno mobilitati, meno militanti. Questo può essere un pregio e può essere un difetto secondo i punti di vista. Comunque, diciamo, avvertono meno la chiamata elettorale, soprattutto quando poi ha carattere amministrativo e non ha carattere politico. Questo è sempre avvenuto ed è un fenomeno, diciamo, endemico, e forse neanche solo italiano. Ma Marcello, scusa, però se dici questo, allora, quindi, diciamo, l'accusa che ha mosso Berlusconi in questi giorni ai media e soprattutto a trasmissioni come quelle di Santoro e cose del genere, non è vero che dice colpa loro se abbiamo perso a Milano? Guarda, non credo proprio all'effetto determinante dei programmi televisivi, cioè che esista una televisione faziosa, militante, partigiana, ma sicuramente, ma che possa avere un'incidenza determinante sulle elezioni non ci credo proprio, anche perché non dimentichiamo che quando diciamo la televisione era prevalentemente in mani ostili a Berlusconi, Berlusconi ha vinto le elezioni, e viceversa, quando era Berlusconi al governo ha perso, nonostante la TV fosse stata diciamo in parte non so dire se bonificata o emendata, ma comunque era stata modificata. Io credo che quei programmi come quello di Santoro non spostino consensi, cioè Santoro, sai cosa vedi quando vedi Santoro, e quindi hai una precisa idea, lo vedi magari perché ti interessa o perché sei convinto che siano quelle le idee giuste, ma lo spostamento di consensi secondo me avviene più nell'intrattenimento, nella ricreazione che nei programmi di informazione militante, insomma. 800 24 00 24, cosa ne pensate anche voi dell'esito di questi ballottaggi, se questa è secondo voi la notizia della settimana? Ma a proposito, mi è venuto in mente un commento che ho letto in questi giorni sulla Stampa, forse di Andrea Tondelli se non sbaglio, Marcello Veneziani, sì. Che parlava dei cattolici e diceva anche di come da una parte forse siano un po' orfani ultimamente, ma di come per esempio non si siano sia a Milano in particolare, ma anche a Napoli, impressionati della campagna, diciamo, soprattutto del centrodestra, no? Riferita a Milano, a Zingaropoli, al fatto che Pisapia fosse un estremista, che fosse un islamista, un appassionato insomma di moschee, che probabilmente sarebbe diventata la città dei gay Milano, che in realtà lo è già, sarebbe stupido qualcuno che non lo vedesse, perché è una delle città più liberali, diciamo, da questo punto di vista in Italia. Che ne pensi dei cattolici che, nonostante tutto, anche sulle unioni di fatto che hanno subito citato sia De Magistris che Pisapia prima dell'ultimo turno, hanno comunque votato in buona parte evidentemente questi due candidati? Io penso comunque che questa volta i cattolici non abbiano votato pensando alla loro estrazione cattolica, sia perché di fatto era un voto amministrativo e quindi era inutile caricarlo di motivazioni diciamo fondamentaliste, sia perché il voto si è in effetti sparso, non ha avuto quella valenza di voto cattolico contro un voto laicista, anticlericale, e di conseguenza non c'era questa chiamata alle armi, e dobbiamo anche dire, se per questo, che anche diciamo il partito che più dovrebbe rappresentare i cattolici, l'UDC, non mi sembra che sia venuto fuori rafforzato da queste elezioni, cioè a dimostrazione che questa volta diciamo l'orientamento cattolico non ha pesato né in bene né in male nella scelta dei candidati, ha avuto un valore molto molto soft e quindi come tale non ha potuto spostare i consensi, e non ha neanche premiato l'idea di una terza via, diciamo che neanche politicamente. Vero, anche questo, ci sono più le mezze stagioni. Infatti anche del terzo polo non mi ricordo chi ne parlava oggi, perché sono letta velocemente vari giornali dicendo che effettivamente nonostante diciamo il bipolarismo non stia tanto bene in Italia, però in fondo è abbastanza forte, visto che il terzo polo, chi si voleva porre come terza forza tra i due possibili crolli di Berlusconi da una parte e del PD dall'altra, alla fine non ha ottenuto questi grandi risultati. Guarda, quello che io penso è che non funziona in Italia il bipartitismo, ma il bipolarismo funziona, cioè nel senso che grandi gruppi, dici. Ecco, non ci schiacceremo mai su due soli partiti, come hanno pensato Veltroni e anche Berlusconi. Noi siamo un paese che ha diverse identità, però abbiamo ormai la consapevolezza che il bipolarismo ci serve, perché l'alternanza è una cosa buona, perché la democrazia deve prevedere una maggioranza e un'opposizione che si alternano al governo, quindi diciamo siamo diventati bipolari ma non siamo bipartitici. Sentiamo, prima di andare alla viabilità, di aggiornare chi sta viaggiando, come mi informa Valeria Bernardi dalla parte tecnica, Ferdinando da Milano, mi dici solo l'argomento della notizia della settimana, poi ne parliamo. Sì. Chiedere il parere al signor Veneziani, siccome questo ballottaggio è andato più a sinistra della sinistra, noi cosa andiamo a fare? Torniamo indietro, andiamo più verso lo Stato o più verso il mercato? Solo il suo parere, per favore, mi devi scusare se approfitto te. No, è qui apposta, è l'opinionista estemporaneo di oggi, Marcello Veneziani, è qui apposta. Grazie Ferdinando, quindi Ferdinando lo possiamo salutare, poi puoi ascoltare la risposta tra pochissimo. 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Prontamente. finalmente qui, come vedete, Roberto Giordano sempre con voi, opinionista estemporaneo di oggi, è Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, editorialista del Giornale, appena pubblicato con Mondadori Vivere non basta. 800 24 0024 per commentare le notizie della settimana con le vostre libere opinioni. Quindi Marcello, diceva Ferdinando, con questi risultati soprattutto a Milano e a Napoli, lui diceva andiamo verso lo Stato, andiamo verso il mercato, insomma voleva chiederti se da un punto di vista ideologico, culturale, poi cambierà molto oppure sono dei candidati che faranno un po' di testa loro al di là dei partiti. Guarda, io potrei dare così una risposta di fondo e una immediata. Quella di fondo direi che alcuni commentatori hanno detto finalmente ci siamo liberati degli anni Ottanta. Ecco, io ho l'impressione che in alcuni casi siamo tornati agli anni 70, cioè siamo tornati un po', diciamo, a quel tipo di radicalismo utopista, un po' massimalista, insomma, che era tipico degli anni 70, gli anni di piombo. Insomma, ci sono avvertite anche alcune influenze climatiche, però dal punto di vista proprio della politica pratica mi pare difficile immaginare che si possano cancellare 20 anni, 30 anni di storia e si possa tornare ad esempio allo statalismo, insomma, perché credo che sia quella la preoccupazione dell'ascoltatore. Ecco, non parlerei di un ritorno allo Stato, non parlerei di una penalizzazione del mercato. Il mercato vive un momento non di esaltazione, ma in tutto il mondo, mica solo in Italia, e quindi non mi pare di cogliere da questi dati un cambiamento, diciamo così, di natura ideologica. Io lo vedo più un cambiamento ad personam, ecco, per così dire, e non un cambiamento ideologico. Senti, devo dire, piuttosto curioso, vediamo se lo ritrovo, ecco, l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia di ieri, no? Che si intitola L'obbedienza che avvelena. E dice questo, vorrei capire tu che cosa ne pensi di questa sua interpretazione. Dice: è stata l'obbedienza pronta, cieca e assoluta il veleno che ha ucciso il PDL. Diciamo che celebra un funerale un po' prematuramente. Dice: o meglio, che inoculato nel suo corpo fin dall'inizio. Questo veleno fin dall'inizio gli ha impedito di esistere veramente come partito. Bisognava obbedire a Berlusconi, questa è la regola, dargli sempre ragione o perlomeno non azzardarsi mai a criticarlo esplicitamente o con una certa continuità. Intendiamoci, dice, anche l'obbedienza è necessaria nei partiti, ma in dosi appena eccessivi essa diventa micidiale. Abitua chi comanda a credersi infallibile, a chi obbedisce a non avere idee, a ridursi a un ruolo totalmente passivo. Oppure, come è capitato a Fini, induce, e qua abordata anche a Fini, cieche ribellioni senza futuro. Ma c'è una cosa ancora più grave, dice Ernesto Galli della Loggia, ed è quando vige il principio dell'obbedienza, quel che ne risulta è inevitabilmente una selezione alla rovescia. I primi posti e le maggiori prebende vengono assegnate a coloro che si mostrano più obbedienti, e cioè in genere ai più deboli e ai più conformati, insomma, prevalgono gli incapaci. E dice che questo è un circolo vizioso alla fine, perché quando le cose cominciano un pochino a sgretolarsi o quantomeno a traballare, ci rimette anche la leadership di Berlusconi, dice: si è molto avvantaggiata di questo, ma adesso sta pagando anche un prezzo piuttosto salato. Cosa ne pensi? Ma guarda, di primo acchito dovrei dire ha ragione, cioè nel senso che in effetti sono quelli i tipici effetti, le tipiche conseguenze, diciamo, di un potere monocratico. Però non dobbiamo dimenticare anche il lato A di questa vicenda, cioè che grazie a questa leadership forte, seduttiva di Berlusconi, il centrodestra ha potuto, diciamo, ottenere quei risultati e quel consenso. Diciamo pure che il centrodestra, il PDL, è stato immaginato come una monarchia, insomma, e quindi ha una struttura monarchica con i pregi e i limiti di una struttura monarchica. In una fase diciamo critica come questa emergono di più i lati negativi, ma non dobbiamo dimenticare che quello è stato il punto di forza rispetto al centro-sinistra per tanto tempo, cioè avere veramente un leader. Io credo che il problema vero di fondo del centrodestra sia questo: il centrodestra ha avuto per molti anni un leader riconosciuto da tutti, quindi un forte leader e un forte popolo intorno, non ha avuto una classe dirigente nel mezzo. Questo è stato il suo grande limite. Oggi si va incrinando da una parte il larghissimo consenso popolare e si incrina naturalmente anche la leadership, anche per ragioni di età, per ragioni di curva inevitabile, bisogna prenderne atto, però ecco, credo che sia un po' ingeneroso ritenere che sia stata l'obbedienza la causa del declino. Insomma, credo che, insomma, il discorso richiami troppi agenti e non soltanto questo. 800 24 0024. Tra poco il numero verde, c'è Paolo da Palermo, poi Francesca Carla dalla provincia di Monza, ma come sempre è l'unica trasmissione al mondo ad avere anche collegamenti con altri pianeti, in particolare uno. Riflessioni da Marte. qui da Marte, appunto, scrutando il globo terracqueo, ci si avvede, immagino ancor più che dal globo stesso, che quasi nulla è così come appare. Dalle cose più internazionalmente e loscamente intricate, ultimamente svelate per esempio da WikiLeaks, a ciò che si cela sempre più spesso dietro 22 polpacciuti che corrono dietro una sfera di cuoio prendendola a calci e poi prendendo a calci anche il resto. Sembrerebbe davvero che non ci sia nulla dietro al quale non si nasconda almeno qualcos'altro. Ma giunge anche la notizia questa settimana che chi era stato ingiustamente accusato, vilipeso, incolpato di delitti senza appello, perseguitato, indicato come immondo untore, è stato al fin scagionato. Ebbene, sì, lo sappiano tutti, il cetriolo è innocente. E a proposito ancora di ciò che sembra ma non è, si pensava ingiustamente che la Corea del Nord fosse uno degli ultimi baluardi della Guerra Fredda, con quell'atmosfera grigia, tristerrima, opprimente. Invece, secondo una classifica dei paesi più felici, si scopre che il paese con capitale Pyongyang, appunto la Corea del Nord, è la seconda nazione più felice al mondo, dopo la Cina, che poi è anche il suo ultimo grande alleato rimasto. Brutte notizie invece, per esempio, per gli Stati Uniti, che risultano come felicità al 203° posto. Chissà cosa avrebbe detto Seneca a proposito di felicità, anche Marcello Veneziani. Voi forse vi chiederete, e chi è che ha stilato questa classifica della felicità in cui la Corea del Nord risulta il paese più idilliaco al mondo dopo la Cina? Ottima domanda. Vediamo un po' l'ha stilata proprio la Corea del Nord. Guarda tu, che coincidenza straordinaria a volte, no? La vita. E sempre a proposito di ciò che sembra, qualcuno, dopo la vittoria e i ballottaggi di Giuliano Pisapia, ha detto che Milano è stata espugnata. Ebbene no, in questa settimana a essere davvero espugnata è stata la Iazzone. Riguardare le notizie per credere. Clienti truffati dell'azienda Reda Tinello e dunque imbufaliti e lavoratori della Iazzone rimasti in braghe di tela senza lavoro si sono organizzati grazie all'aggregativo mezzo di Facebook in un esproprio proletario di massa, dando l'assalto al grido di acchiappa il Comò allo stabilimento del bergamasco. Pare nella foga giustiziera che gli insorti del truciolato si siano portati via anche considerevoli pezzi di pavimento che, come si sa, può sempre tornare utile. E tra l'appropriazione di un letto e di una poltrona sembra che la massa creditizia sia inferocita abbia anche ideato un inno alla cassettiera depredata. Sentire per credere. Lasciamo perdere cassettiere e sofà e torniamo con i piedi per terra. 800 24 00 24. Paolo da Palermo. Buongiorno. Buongiorno caro Paolo. Allora, al di là di tutti questi tecnicismi, io penso che questo voto degli italiani alle amministrative, penso che sia stato un voto di protesta, perché se pensiamo fino all'altro ieri i voti erano diametralmente opposti. Non penso che gli italiani abbiano cambiato idea politica soltanto per la politica, ma io penso invece che noi italiani siamo abbastanza scontenti della politica e dei politici in genere, quindi per me questo è un segnale mandato a Berlusconi, lo vedo tanto come un ultimatum, ma è anche un segnale forte alla sinistra, perché se la sinistra oggi domani dovrebbe governare il nostro paese, io penso che dovrebbe veramente lavorare per noi italiani, perché non so se poi avremo tanto a che invidiare al Maghreb. Questo è il mio intervento. Addirittura. Grazie Paolo. Francesca Carla, dalla provincia di Monza. Buongiorno, buongiorno dottoressa Giordano. Buongiorno Francesca. Che cosa ti ha colpito questa settimana? Tantissime, tutte, mi hanno colpito talmente tante che quasi casco per terra, sono troppe. Però una, ecco, che mi tocca anche un po' da vicino, sì. No? Bisogna un po' guardare. Questo cetriolo, questo batterio. No, il povero cetriolo, hai sentito da Marte, è innocente, è stato scagionato. È innocente, detto poverino, non è vero. Sì, con quell'aria così innocua, effettivamente. No, che faccio? Sì, l'ho sentito, che. Anzi, hanno detto, pare che non arrivi neanche dalla Spagna. Pare, no, l'epicentro è Amburgo, in Germania, però di cose certe finora se ne sa poco, anche perché. Però, sì. Vedi, dottoressa, stamattina sono andata al mercato, no? Cos'hai comprato? E ho guardato un po' in giro così, però. Avevo un'aria sospetta certi vegetali, vi siete guardati sì, un po' in cagnesco. Sì, io un pochino, ma anche le mie amiche, tutte parlavano di quello, si parla di quello. Oh, Uno dice, ma comprare roba cruda sarà, andrà bene, non andrà bene? Ah, ma io ci metto su un po' di la mucchina, disinfetto con questo. Bicarbonato, eccetera, eccetera. Beh, insomma, per ora sembra che, almeno le indicazioni, diciamo, del Ministero della Salute e del Ministro stesso Fazio siano quelle di stare tranquilli, di lavare bene naturalmente i vegetali, di lavarsi le mani. Devo dire che notizia delle ultime ore, Francesca Carla, è che il batterio killer... avrebbe colpito anche nell'Alto Adige a Merano, però adesso invece questo allarme rientra perché il turista l'avrebbe probabilmente non solo preso all'estero, ma sembra che non abbia a che fare con questo batterio che si chiama E. coli, diciamo, sintetizzando. Marcello Veneziani, di fronte a una cosa del genere, ogni tanto ne salta fuori una, purtroppo, no? Dalla mucca pazza alla lattuga schizofrenica, eccetera, eccetera, la viaria dei polli. Uno come te come si comporta? Che pensi? Che fai? Ma devo dire che io non mi lascio prendere da questa psicosi, anche perché io sono un fatalista per pensiero, oltre che per indole. E quindi, Amorfati era il tuo penultimo infatti, libro, no? Infatti, ecco. Quindi sono molto legato alla Amorfati. E quindi, evitando ovviamente scelte sconsiderate, però non risento di questi umori e di queste paure. Anzi, devo anche confessarti che proprio stamattina ho scritto per il giornale un articolo che uscirà domani sull'innocenza del cetriolo. Vedi? Proprio perché mi pareva giusto anche scagionarlo da queste giusto. Accuse, insomma, e rivalutare il mondo vegetale. E per questo sono piuttosto scettico, cioè, certo, il problema c'è, bisogna affrontarlo, però ecco, spargere questo panico nella popolazione, che diventa poi diffidente di tutto, frutta, verdura, carne, pesce, tonno, eccetera, beh, insomma, voglio dire, è un'istigazione all'anoressia di massa, insomma, io direi, è meglio prenderla con maggiore duttilità, insomma, ecco. 800 24 00 24, ci ritroviamo tra pochissimo, abbiamo questa pausa, però vorrei anche che poi tu, Marcello, pensassi e poi ci rispondessi dopo, quando rientriamo, anche su, per esempio, la scelta di Angelino Alfano come segretario del PDL, no? Molti all'interno ne hanno parlato positivamente, bisogna vedere se per convinzione o per convenzione. E invece, per esempio, Feltri, direttore responsabile, editore editoriale di Libero, ha detto che si tratta di una pecetta. Ne parliamo dopo. Di nuovo insieme Roberta Giordano con voi, opinionista estemporaneo di oggi, che sta commentando i fatti della settimana. Marcello Veneziani, giornalista, scrittore, editorialista del Giornale. Ultimo libro pubblicato da Mondadori è Vivere non basta, lettere a Seneca sulla immagina di scrivere queste lettere a Seneca, 18 lettere sulla felicità, sulla tristezza, la gioventù, la vecchiaia, il futuro, il potere, insomma, un po' tutto quello che riguarda la vita. E, Marcello, quindi ci eravamo lasciati sulla questione Alfano, che è diventato segretario del PDL, per lo più dicevamo all'interno del PDL, è stata accolta, diciamo, con favore. Feltri ha parlato di pecetta. No, io non sono d'accordo con Feltri in questo caso. Devo dire che a me è sembrata una buona scelta. Primo, perché è un salto generazionale, cioè si punta finalmente su un quarantenne, e quindi mi pare un segnale importante. E mi sembra anche un modo per recepire il senso della sconfitta elettorale. Due, bisogna dire che non aveva funzionato bene col PDL con il triumvirato, non forse per colpa dei triumviri, ma insomma non funzionava, quindi bisognava comunque cambiare. E poi Alfano in sé come profilo mi sembra che sia un personaggio che ha promettenti qualità, dobbiamo vederlo naturalmente all'opera, però mi è parso finora abbastanza equilibrato, presentabile, in grado insomma di rappresentare quel mondo variegato, quindi penso che tutto sommato sia stata una buona scelta. E anche l'indicazione che diciamo il partito non vive soltanto di Berlusconi, ma può anche pensare a un salto generazionale, perlomeno deve farlo, insomma, se non lo fa il PDL finisce con Berlusconi, insomma, ecco. Senti, non è un modo per contrastare Tremonti, che si dice gli piace, non gli piace, si capisce se piace a Berlusconi e Tremonti. Ma sai, Tremonti non credo che abbia mai avuto velleità di guidare il partito, anzi, se vogliamo, l'ipotesi di Alfano alla segreteria può anche, diciamo, dare maggiori chance a Tremonti un domani di essere lui colui che succederà a Berlusconi. Certo, Berlusconi nei suoi confronti è una specie di amore odio, perché sa quanto sia stato bravo come ministro e quanto valga, sa pure che dall'altra parte è un suo, diciamo, possibile futuro successore, quindi quindi se vogliamo implicitamente antagonista, e quindi c'è qualche cosa che non funziona nel rapporto tra i due, ma è normale perché sono due personalità abbastanza forti. Torniamo alle telefonate. Al telefono c'è Margherita Frarelli, sta prendendo le vostre chiamate all'800 24 00 24 e sentirei la notizia di Marco da Roma. Sì, buongiorno Roberta. Buongiorno a te. Io volevo commentare un po' il risultato dei ballottaggi. Sì. Non sono di parte perché non sono italiano, quindi... Di dove sei? Di dove sei, Marco? Io sono argentino, sono figlio di italiani, però sono nato in Argentina. Da quanto vivi a Roma? A Roma 5 anni e 5 anni prima a Milano, quindi da 10 anni in Italia. Qui però un'idea, diciamo, almeno una simpatia da una parte o dall'altra o verso un'altra terza. Io sono un po' diciamo sì, dal centro, un po' a sinistra, ma non diciamo che anche voterei la destra se le proposte sono... Quel che viene, insomma. No, non quel che viene, però io penso che le ideologie un po' sono morte. Quindi tu guardi ai programmi, quello che... Io guardo i programmi, alle proposte e anche alle persone. E vedo che un po', io da 10 anni sono un attento osservatore della politica italiana, e il mio commento su questi risultati è che un po' gli italiani si stanno svegliando, e nel senso che non vogliono più le politiche degli spot, degli annunci, delle campagne elettorali, vogliono la politica del fare. E in questi anni io sento che un po' il centrodestra ha preso in giro un po' gli italiani sotto la figura del Presidente del Consiglio, giustamente. Questo è un po' mia osservazione un po' esterna, possiamo dire, no? E penso che la mossa di Angelino Alfano sarebbe stata una cosa buona se questo veniva scelto dal partito. Ah, dici non così proprio a persona da Berlusconi? No, perché l'ennesimo... Cioè, finora io quello che ho visto nel Popolo della Libertà è un leader carismatico, scegliendo a dito i candidati, i ministri e tutto quanto, e non un partito democratico come quello che volevano far vedere agli elettori. Marco, ti ringrazio e giro questa tua considerazione a Marcello Veneziani, anche perché lui anche prima l'ha riconosciuto, no? Diciamo che è un partito monocratico, però dice Marco forse Alfano doveva un po' sceglierlo così unanimemente, democraticamente tutto il partito, tutto il PDL, non essere indicato. Sì. Ma guarda, io credo che quando un partito è in una situazione quasi di ectoplasma come il PDL, gioco forza deve essere il leader a dare l'avvio e poi il processo, diciamo, democratico di risveglio del partito può avvenire in seguito, ma qualcuno doveva cominciare e oggi era un po' difficile immaginare che ci potessero essere delle primarie a prescindere. Cioè, è bene che si avvii così questo processo, con un personaggio che peraltro ha il gradimento anche di varie componenti del PDL e non solo di Berlusconi. Successivamente poi si vede. Secondo te ci saranno le primarie? Perché Alfano ha detto... È probabile che ci siano, non credo immediatamente, però diciamo Berlusconi ha aperto questa ipotesi e credo che a questo punto, mancando una legittimazione politica negli altri, l'unico test è quello, diciamo, popolare, quindi le primarie sono un unico assaggio. Invece vorrei dire una cosa sulla questione generale del governo. Io penso che le osservazioni fatte, anche giuste e pertinenti, sulle aspettative deluse degli italiani, si possono fare uguali, per esempio in Spagna con il governo Zapatero, oppure nei tanti paesi del nord Europa che hanno stranamente poi attribuito grandi consensi elettorali alla destra estrema addirittura, a dimostrazione che l'Europa vive un momento di grande difficoltà, le promesse politiche elettorali che sono state fatte non sono state mantenute perché oggettivamente è un periodo molto difficile e quasi tutti i governi sono nei sondaggi sotto la barra della maggioranza. Questo anche Obama prima dell'uccisione di Osama Bin Laden, però può darsi che qualche spot in più qui sia stato lanciato o no? No, ma sicuramente poi possiamo, premessa questo scenario di fondo, possiamo dire, certo, si è promesso troppo rispetto a quello che si è mantenuto. Io sostengo un'altra cosa, che bisogna comunque paragonare i voti, cioè comparare le situazioni, cioè dire che da una parte c'è uno che ha promesso 100 e ha fatto 5, dall'altra c'è un tipo di schieramento che crea, come dire, più timori che aspettative di speranza, cioè nel senso che è più minaccioso sul piano fiscale, dell'inefficienza, dell'incapacità di raggiungere accordi, perché è molto composita, diciamo, la coalizione alternativa a Berlusconi. E quindi soltanto attraverso questo paragone uno può dire che sicuramente Berlusconi è andato molto al di sotto delle aspettative, però l'alternativa non si è vista, non si vede e purtroppo continua ancora a non vedersi. Poi a questo proposito, dopo ti leggo qualche stralcio dell'editoriale di Telese sul Fatto Quotidiano di oggi, però prima all'800240024 vorrei tornare con Alberto da Verona. Alberto? Sì, buongiorno. Buongiorno a te, Alberto. Volevo fare una considerazione su quello che ha detto prima il signor Veneziani. Sì. Quando ha parlato che con la venuta di Berlusconi ha parlato di bonifica delle televisioni. Io mi domando se la bonifica che ha fatto Berlusconi è inserendo persone come Mimun, come Masi, come Minzolini, e magari cacciando gente come la giornalista Ferrari o la Busi. Se è questa la bonifica che intende il signor Veneziani, grazie. Non credo, Alberto, che ti desse questo. Marcello? Io, guarda, non ho usato un'espressione in senso positivo, ho detto potete chiamarla come volete. Bonifica tra virgolette, sì, l'avevi detto. Era tra virgolette. E in ogni caso, rassicuro l'ascoltatore che questa prassi becera è una prassi antica. Quando arriva il centrosinistra arrivano i direttori del centrosinistra, quando arriva il centrodestra arrivano quelli del centrodestra. La soluzione qual è? La soluzione, ovviamente per ora impossibile, è quella di eliminare il controllo politico e partitico dal servizio pubblico televisivo. Non ci sono ancora le condizioni, ma credo sia l'unica strada possibile, perché purtroppo i risultati sono questi. Soltanto che grazie alla fabbrica del consenso mediatico nel nostro paese, quando va a dirigere un TG una persona gradita a Berlusconi è un servo di Berlusconi, quando va una persona gradita ad Alema o a Prodi o a Veltroni è uno del servizio pubblico e basta. E è questa disparità che a me irrita molto, devo dire. Ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che poi potete riascoltare la trasmissione, che proprio vi ha entusiasmato, avete perso dei pezzi, volete riascoltarvi sul podcast sia sul sito di radio24.it sia sulla pagina Facebook da lunedì di Non ci sono più le mezze stagioni, quindi se volete anche poi commentare da oggi, da domani, poi le notizie che seguiranno nei prossimi giorni, la pagina Facebook dovete cercare Roberta Giordano Non ci sono più le mezze stagioni. Marco da Monza. Marco? Pronto? Parlo come stessa? Sono io? Sono io, mi riconosco. Marco, vediamo se riusciamo magari lì con la radio un po' a volume alto. Saverio da Padova. Buongiorno. Buongiorno Saverio. Io volevo intervenire dicendo che è veramente arrivato il momento di cambiare la classe politica. Perché è vero che siamo nella Seconda Repubblica, ma è per vero, secondo il mio modo di vedere, che è la fotocopia della prima, nel modo di ragionare, di vedere le cose, cioè voglio dire, questa è una classe politica purtroppo che è lo specchio degli italiani, nel senso che bisognerebbe ormai dare spazio ai giovani, vedi per esempio il sindaco di Firenze, Renzi. Sei un rottamatore, Saverio, anche tu? No, le spiego, le premetto che io sono una persona che vota centrodestra. Però è pur vero che ragazzi come Renzi, che se non si fa trascinare dai vecchi, dai cosiddetti vecchi, lui potrebbe veramente essere diciamo il vero cambio della politica italiana. Però non appartenendo né a destra né a sinistra, ma veramente intervenendo, cioè, per risolvere i problemi del nostro paese, perché ormai è diventato vecchio anche nella classe politica, cioè c'è poco da fare, cioè bisogna dare spazio ai giovani, veramente ai giovani. Saverio, ti ringrazio e chiedo a Marcello Veneziani, prima della viabilità, sinteticamente, intanto il numero è sempre 800240024 per i vostri commenti sulla settimana, sulle notizie della settimana, se secondo te basta questo cambio generazionale, se è una questione di giovani, di mentalità, di andare a pescare altrove, che bisogna fare? Sì. Guarda, probabilmente non basta, però bisogna farlo, cioè nel senso che noi siamo alla fine di un ciclo, questa è una tesi che io sostengo anche sul giornale, sottolineo, sul giornale, siamo alla fine di un ciclo, ma in questo ciclo c'è dentro tutto il berlusconismo, ma anche tutto l'anti-berlusconismo, cioè tutti coloro i quali in questi anni hanno campato all'ombra di Berlusconi, o per diciamo ottenere vantaggi, o per vivere di imprecazioni. È il momento di dare luogo a una svolta, e quindi questa svolta diventa inevitabile. Quando un ciclo si conclude bisogna puntare su nuovi soggetti, poi non bisogna fare una distinzione, come dire, di razzismo anagrafico, meglio sarebbe che fossero giovani, se non sono giovani non fa niente, ma intanto adottiamo il sistema del cambiamento, arriviamo a quella fantomatica Terza Repubblica. Non sono d'accordo, dico solo brevemente, sull'idea che la Seconda Repubblica sia una ripetizione della prima, ha avuto i suoi difetti, ma erano i suoi difetti, come dire, peculiari della seconda, non somigliavano a quelli della prima, soltanto alcuni tratti erano comuni, ma diciamo che le forme del degrado della politica della seconda sono completamente diverse dalle forme del degrado della prima repubblica. C'è un distinguo anche nel degrado. 800 24 00 24, a tra pochissimo. Ancora diversi minuti con noi, con voi, Roberta Giordano, 800 24 00 24, e Marcello Veneziani, che sta commentando oggi le notizie della settimana, opinionista appunto, estemporaneo, giornalista, scrittore, editorialista del Giornale. L'ultimo libro si intitola Vivere non basta, per Mondadori, lettere a Seneca, si immagina appunto di essere il suo allievo e di aver ritrovato le lettere che dovrebbero essere andate perdute nella casa, nel crollo della casa del moralista. Marco, vediamo se riusciamo a chiapparlo finalmente. Marco. Sì. Eccoci, Marco. Che stavi facendo? Dove stavi andando? Che stai facendo? Marco? No, ho chiamato perché vorrei fare una considerazione riguardo alla notizia prima di Aiazzone. Sì. Di quei argenti che ha portato via, a quanto pare, anche i pavimenti. Ok, può essere condannabile, tutto quello che vogliamo, però probabilmente ci sono delle cause veramente... cioè che esasperano queste persone a fare questi gesti, insomma, non credo che siano dei gesti così di ira o dei gesti così... Guarda, bisogna dire, rimani Marco che ne parliamo, che effettivamente delle motivazioni forti le hanno avuto i lavoratori che hanno visto questo crack, questo percorso fallimentare di un'azienda che negli anni 80 andava fortissimo, poi è morto prematuramente il suo fondatore Aiazzone, e i clienti che avevano pagato dei mobili che non avevo mai visto arrivare, che pensavano qui prima o poi svapora tutto, finché si riconoscono le responsabilità tra avvocati, giudici, cose varie, eccetera eccetera, noi come molti altri in altri crack anche molto più grossi rimaniamo gabbati. Quindi diciamo il motivo forte e tra virgolette la giustificazione c'è, poi come alcuni hanno osservato in questi giorni, alcuni osservatori, opinionisti eccetera eccetera, è un po' tracimata, diciamo, nella vendetta, nel branco giustizialista, che dice se tutti facessimo così, insomma, dove si andrebbe a finire. Però questo può anche cercare di far capire a chi dovrebbe, al di là degli imprenditori di questo tipo un po' senza scrupoli, ma anche ai giudici, che queste cose ha a che fare anche con la giustizia italiana, lunghezza dei processi eccetera, vanno comunque affrontate con tutti i crismi, nei modi e nei tempi giusti, che le persone hanno comunque bisogno di giustizia, che sia un grande fatto, un grande delitto o cose di questo tipo, comunque hanno la loro importanza. Immaginate magari qualcuno che ha pagato a rate, ha fatto sacrifici e non si vede arrivare i mobili, no? Che ne pensi, Marco? Questo volevi dire? Sì, cioè... no, infatti era ben questo, cioè io dico, si parla tanto di cose da fare, di cose importanti, quando basterebbe partire dalle cose piccole, magari se ci fosse una giustizia un po' più veloce su queste cose, magari non potrebbero riconosciute le loro ragioni queste persone. Marco, ti ringrazio. Che ne pensi, Marcello Veneziani, di questa riedizione dell'esproprio proletario? Ma guarda, sono convinto che le motivazioni di fondo abbiano una loro, diciamo, plausibilità. Non vanno ovviamente incoraggiate, perché si crea poi una spirale senza fondo. E anche credo per un'altra ragione, perché ci sono casi in cui può avere un senso il saccheggio, ma immaginate gli azionisti che sono stati fregati dalle operazioni Parmalat. Cosa dovevano fare? Andare a prendere il latte dalla Parmalat. Cioè, voglio dire, i mobili già sono un ipotetico, diciamo, risarcimento, no? I mobili presi a saccheggio, ma in altri casi non è possibile neanche il saccheggio, quindi ci sarebbe anche un'ingiustizia nel saccheggio, dipende dal genere. Ma io direi appunto che bisogna semplicemente far funzionare di più la giustizia e soprattutto i tempi della giustizia, perché sono quelli che alle volte inchiodano alla disperazione. Direi che a questo punto procediamo galoppando verso anche un'istantanea satirica di questa settimana, con tutte le cose che sono successe, che affido come sempre ogni settimana, ogni sabato, a Stefano Andreoli, fondatore di Spinoza.it, scritto anche Spinoza, per chi non lo sapesse, ormai universalmente conosciuto, diciamo, è il blog di satira più cliccato dell'intero globo terracqueo. E Stefano Andreoli poi ha pubblicato anche recentemente un secondo libro, Spinoza, una risata vi disseppellirà. Sono riuscita a dirlo, ecco. L'hai detto benissimo, scusami, sono prigioniero delle ferrovie, sono su un treno in ritardo, quindi potrebbe tanto per cambiare mia, com'è possibile che sia in ritardo mia, un treno in Italia? Strano. Quindi galoppiamo, sì. Perché potrebbe cadere la linea da un momento all'altro. Facciamo meglio col Calesse, sì? Scusa, un saluto appunto a Marcello Veneziani e al tuo ospite illustrissimo. Parliamo di referendum, l'11 e 12 giugno si voterà per il referendum. Non era il 12 e il 13? Ho sbagliato, allora voi andate l'11, preparatevi per tempo, scusate, ma sì, condizioni precarie anche in questa imprecisione, scusate, non andateci l'11 a questo punto, trovereste chiuso. Si voterà per il referendum, ma solo nei seggi elettorali che aderiscono all'iniziativa, quindi è una cosa un po' particolare. 4 sì per dire di no. È un referendum a misura di donna, perché 4 sì per dire no, diciamo così. Si voterà Di luogo comune, sì. Vabbè, passiamo avanti. Vabbè. Si voterà su Berlusconi e sull'uso del nucleare, ma sono due quesiti diversi, stiamo attenti, non è lo stesso quesito. Celentano ad anno zero è intervenuto per l'ennesima volta a favore del referendum. Per lui è questione di vita o di morte, per questo si chiamano urne. E gli interventi di Celentano, oramai, non so se ti sei accorta, sono l'unità di misura del decadimento dell'uranio, perché sono sempre più lunghi. È fantastico, Celentano riesce a appropriarsi dell'intera trasmissione. Comunque, libertà di coscienza, ognuno è libero anche di andare al mare, ovviamente, però auspichiamo una bella risposta, noi chiaramente, senza prendere posizione. Non possiamo che commentare finalmente liberi la nomina di Giuliano Pisapiamini a sindaco di Milano, con un paio di battute. Dunque, conteniamoci. Berlusconi aveva dichiarato: se vince Pisapia, Milano si riempirà, le strade di Milano si riempiranno di criminali, drogati e nulla facenti. Si riferiva alla vecchia giunta. E vorrei chiudere con Berlusconi, che ha dichiarato dopo l'esito delle urne: Berlusconi dichiara, milanesi, adesso pregate Dio. Ma forse qualcuno di loro l'aveva fatto prima del voto. Molto bene, ha funzionato. Mannaia su Stefano Andreoli. Grazie. Censuriamo pure dalla parte tecnica. Direi niente, lo lasciamo così com'è. Stefano, niente, ti ha graziato Valeria. Io a questo punto Andrea, un'altra Valeria che ci attende adesso ansiosamente, perché devo sottoporle effettivamente la parola della settimana, che direi, visto che è venuta fuori anche nei nostri discorsi, questa pecetta. Pecetta, Alfano è una pecetta, cerchiamo di capire se è un insulto, cos'è, una roba così affettuosa. Che è questa pecetta? Ecco, pecetta, ma insomma la parola pecetta deriva da pece, no? Quindi quella massa nera che si ottiene come residuo dal catrame, ma poi pecetta ha preso il significato di cerotto, questo soprattutto in Toscana e nell'Italia centrale, poi anche nel resto d'Italia si è diffusa. C'è un altro significato figurato della parola pecetta, se lo cerchiamo lo troviamo in tutti i vocabolari, che è quello di persona molesta o noiosa. Immaginiamo tutti che Feltri alludesse a questo significato quando si riferiva al ministro Alfano. No, non è detta, perché se andiamo a guardare con attenzione nel vocabolario, la parola pecetta ha anche un altro significato. Non è un cerotto, una specie di toppa. No, ce n'è anche un altro, che è macchia di sudiciume. Oh, poveri noi. Dal Tommaseo in poi, anche se meno usato, anche questo significato di pecetta esiste. Forse bisogna richiamare Feltri e chiederglielo direttamente. Ecco, bisogna chiederlo a Feltri, lo sapremo. Grazie Valeria Della Prego, Valle. Arrivederci, ciao. Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. E mentre abbiamo questi 32 secondi con Marcello Veneziani per concludere, Marcello, non abbiamo parlato di questa roba di Calciopoli, che è una cosa veramente disgustosa. È mai possibile che ogni poco, stava finendo il processo a Moggiopoli, poi un altro Calciopoli, che è sto pallone che è sempre... Una roba, ma io guarda, sono convinto che sia una cosa quasi inevitabile, perché laddove ci sono movimenti di capitali così cospicui diventa inevitabile l'alone della corruzione. Bisogna essere drastici nell'intervenire, ma chi pensava che tutto il bubone fosse risolto lì nell'epoca di Moggiopoli, appunto, peccava soltanto di ingenuità, insomma, perché in effetti è un fenomeno ciclico, non riguarda solo il calcio, riguarda altri settori dello sport, ma sicuramente il calcio è più in vista, anche perché spostando masse e capitali come nessuno, credo che inevitabilmente sposti anche interessi ai limiti della criminalità e anche oltre. Per chi tifi, dillo in chiusura, Marcello, puoi esporti in questo senso? Un tempo tifavo per la Fiorentina, era una mia antica perversione, e adesso non tifo più per nessuno. Ma ti è passata la perversione. Grazie Marcello Veneziani. Vivere non basta, parola di Marcello e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.